Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Corleone, provincia di Palermo. È l'11 aprile 2006. Un blitz della polizia ferma la latitanza di Bernardo Provenzano, Binno, l'ultimo dei vecchi capi di Cosa Nostra. Cosa Nostra perde il suo capo indiscusso. La polizia di Stato ha tratto in arresto Bernardo Provenzano, latitante dal 1963. L'ex ministro dell'interno Beppe Pisano annuncia così la cattura del capo di Cosa Nostra in un casale alle porte di Corleone, in provincia di Palermo. Provenzano, al momento dell'arresto, si nasconde in una masseria, si trova solo e in completo relax. Al momento dell'irruzione, indossa jeans e maglioncino, tre croci al collo, la pelle tirata, il fisico asciutto. Provenzano tenta di chiudere la porta a vetri, poi sfondata con la forza dei poliziotti. Alla fine, il boss alza le braccia in segno di resa e viene ammanettato. Il blitz viene effettuato dagli uomini della squadra mobile di Palermo, diretti da Giuseppe Gualtieri, insieme allo SCO di Roma. Nicola Cavaliere, direttore della sezione anticrimine della polizia. L'arresto è avvenuto nelle campagne di Corleone, in una masseria dove c'era solamente il proprietario e il latitante, che naturalmente non ha opposto alcuna resistenza. Gli uomini che hanno agito in modo estremamente professionale non hanno dato il tempo ad alcuno di reagire su nulla. Bernardo Provenzano viene tradito da un pizzino, il messaggio da lui usato per comunicare ordini ai picciotti di Cosa Nostra ancora in libertà. Renato Cortese, il funzionario dello SCO, che è entrato nella masseria di Provenzano. Siamo arrivati su quel casolare dopo, diciamo, l'ultimo segmento investigativo che ci ha portato nel territorio di Corleone. Attività investigativa che si concretizza nel seguire quei famosi pizzini, questa volta accompagnati con dei sacchetti, quindi tra virgolette un po' più facile per noi da seguire. Abbiamo ricostruito quest'ultima catena di trasmissione di messaggi, di poste, di sacchetti, che ci ha portato, dopo una serie di individuazioni di favoreggiatori, all'individuazione di questo casolare di montagna, perché avevamo il sospetto che la roba finisse là sopra. Qualche giorno di osservazione che il casolare è completamente, appariva disabitato, non filtrava nessuna luce, quindi per noi era veramente difficile poter immaginare la presenza della latitante all'interno. Per cui abbiamo dovuto attendere, come dire, che la catena di pizzini che noi avevamo individuato, di sacchetti, arrivasse alla meta finale. Michele Prestipino, il sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, che da anni era alla caccia di Bernardo Provenzano. La cattura di Bernardo Provenzano è il risultato di un'attività investigativa compiuta dalle forze dell'ordine e ovviamente anche dalla Polizia di Stato, che è giunta sull'obiettivo alla fine, e da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che è durata molti anni. In questi anni è stato ricostruito molto della vita e delle relazioni che ha intessuto Bernardo Provenzano con il mondo, ovviamente, di Cosa Nostra e con altri settori della società siciliana. E queste emergenze, queste acquisizioni hanno consentito, diciamo, progressivamente di stringergli il cerchio intorno, di, come si dice, levargli l'acqua intorno e quindi di giungere alla sua cattura. È frutto di lunghe e complesse indagini ed è un risultato davvero eccezionale. Che Bernardo Provenzano fosse vivo e fosse assolutamente operativo e fosse il capo di Cosa Nostra, noi lo sapevamo da tempo, perché è da tempo che con le nostre indagini seguiamo la sua attività, seguiamo diciamo il filo di questi famosi bigliettini con i quali lui ha nel corso di questi anni continuato a dirigere l'organizzazione mafiosa, ha continuato a esserne il capo. Provenzano era vivo e lo abbiamo dimostrato catturandolo. E l'11 aprile 2006, proprio davanti alla questura di Palermo, in centinaia applaudono la polizia e fischiano Bernardo Provenzano, ormai nelle mani dello Stato. sono in gran parte giovanissimi militanti delle associazioni antimafia siciliane. Bernardo Provenzano è il mandante delle stragi più atroci. È lui a dare l'ordine degli attentati di Via Capaci e Via D'Amelio. Nel 1992, le stragi in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È lui il mandante degli attentati politici del 93, con le autobombe di Via dei Georgofili a Firenze, di Roma e Milano. E il suo nome compare in decine di processi, per omicidi, associazione mafiosa e altri reati, come traffico di stupefacenti e sequestro di persone. La latitanza di Bernardo Provenzano parte da lontano, cioè dal 1963. Corleone è dominata da due clan criminali, i picciotti di Luciano Ligio e quelli che stanno con Michele Navarra. In mezzo c'è solo una lunga striscia di sangue e di omicidi, casi di lupara bianca, per i mezzi. Alba del 9 maggio 1963. Quattro killer, Giuseppe Ruffino, Calogero Bagarella, Giovanni e Bernardo Provenzano, agiscono su ordine di Luciano Ligio. Devono uccidere Francesco Paolo Streva, esponente del clan Navarra. Streva riesce però a rispondere al fuoco dei sicari e sfugge all'agguato. I mafiosi Biagio Pomilla e Antonio Piraino vengono colpiti a morte. Streva sarà poi ucciso il 10 settembre. Il 9 maggio 1963 i carabinieri convocano Bernardo Provenzano nella caserma di Corleone. I militari non hanno prove per incastrarlo, così lo rilasciano e lui diviene latitante. Scomparso, volatilizzato, tutti sanno dov'è, ma lui riesce sempre a sfuggire alla cattura. Siamo nel 1981. Le intercettazioni telefoniche della polizia di Agrigento sull'utenza del mafioso Carmelo Colletti fanno emergere il ruolo di un ragioniere. Si parla dei suoi conti, delle sue fatture, che i boss siciliani vanno a ritirare in una ditta di materiale ferroso, la ICRE, di Bagheria. Nessuno all'epoca pensa però di controllare chi sta dietro a quegli uffici al chilometro 248 della strada statale 113. Il ragioniere è invece Bernardo Provenzano. Le intercettazioni restano chiuse nell'archivio di Palazzo di Giustizia di Agrigento, allegate agli atti del maxi processo. Le bobine risultano misteriosamente scomparse. La zona franca che protegge Provenzano viene violata nel 1995 a Bagheria. I carabinieri del ROS si trasformano in operai, ragazzi che tornano dal mare, semplici imbianchini. Osservano le mosse di alcuni signori vicini a Binno. Sono Giacinto Di Salvo, Vincenzo Giammanco, Giacinto Scianna. Le loro ville sorgono nel grande parco vincolato della villa settecentesca di Val Guarnera. Lì, dicono i pentiti Giovanni Brusca e Angelo Siino, si nasconde Provenzano. Ma Binno si è già allontanato. Siamo nel gennaio 2001. Durante il blitz che porta all'arresto del boss Benedetto Spera, la squadra mobile di Palermo scopre le lettere che i figli, la compagna e il fratello Salvatore inviano a Bernardo Provenzano. Alcuni riferimenti risultano cifrati. Scrive quel giorno Angelo Provenzano al padre. Per una visita medica avevo intenzione di contattare, con il tuo permesso, 101-22-34-151-512, 148-1964-741-521-8. Acquisto terreni. Sono stato un po' disubbidiente su questo argomento, in quanto sotto le feste mi sono visto con la persona interessata e siamo rimasti che dopo le feste ci dovevamo vedere per discutere. Tu ti ricordi di quel terreno di cui ti ho parlato, che tu mi hai sconsigliato in quanto terreno brutto? Io non ho abbandonato di seguire l'evoluzione dell'affare e mi fanno sapere che il proprietario è disposto a vendere per 400 milioni i 38 ettari di cui è composto. I 400 io non ce li ho, però so che ci sono persone che hanno fatto affari con terreni simili e con cifre più grosse. Mi riferisco a... E così, per vie traverse, ho cercato di sapere come si fa. E mi viene detto che ci vogliono gli agganci politici per poter farsi finanziare il terreno tramite prestito trentennale, per poi realizzarci, oltre il prestito, l'impianto di bosco che viene finanziato con un contributo a fondo perduto di circa 8-9 milioni ogni ettaro. Il capomandamento di Caccamo, Antonino Giuffrè, si pente. Lui è il braccio destro di Bernardo Provenzano. E l'8 ottobre 2002 compare per la prima volta davanti alla prima corte d'assise d'appello di Palermo. Ho collaborato con il Provenzano per più di 20 anni. E in modo particolare il ruolo mio personale nei confronti di Cosa Nostra in questi ultimi anni si è molto esteso non solo sulla provincia di Palermo, ma anche su altre province. Diciamo che ero il collaboratore principale di Provenzano, che aveva ricevuto incarico per potermi muovere in questo senso, cercare di ristrutturare Cosa Nostra su bassa scala. Quel giorno Antonino Giuffrè delinea nomi e cognomi dei luogotenenti di Bernardo Provenzano. I miei incontri con il Provenzano sono stati quasi sempre periodici, prima dell'arresto in modo particolare ogni settimana, 10 giorni massimo, ci vedevamo. Incontri che avvenivano a Bagheria, spesso a Palermo, parlo di posti e siti in via Mariano Stabile, nella borgata Pagliarelle, in un fabbricato vicino al Politeama. Chi era il punto di riferimento che fissava gli appuntamenti? Lei, quando ci doveva parlare, a chi si rivolgeva? I punti di riferimento erano Leonardo Greco e Nino Gargano. Successivamente a questi due nomi si è aggiunto un terzo nome, Nicolò Eucaliptus. Come ho detto in modo particolare all'inizio, questi incontri, diciamo che in linea di massima c'era anche Cicentino in questo periodo, però all'inizio avvenivano nel deposito di ferro del Leonardo Greco. Poi successivamente in diversi posti situate nel comune di Bagheria, parlo come comune centro abitato, ho fatto incontri con il Provenzano, sia come centri, cioè come case private, che come centri commerciali. Al processo contro Marcello Delluti a Palermo, Giuffrè ricorda in quali luoghi si incontrava con Provenzano e l'udienza del 7 gennaio 2003. 98-99, giusto? Sì. Io in questo periodo non ho mai incontrato Provenzano a Palermo, ma l'ho incontrato in abitazione di campagna. Lei ha incontrato talvolta Provenzano a Palermo? Ho incontrato diverse volte Provenzano a Palermo, ma in modo particolare negli anni '80 e qualche volta all'inizio degli anni '90, però poi per buona parte dei nostri incontri sono avvenuti in villa di campagna. E nel 2003 avviene l'ultima segnalazione, forse quella decisiva. Bernardo Provenzano viene intercettato in una clinica francese di Marsiglia. Si era sottoposto a un intervento chirurgico sotto falso nome dopo aver attraversato l'Italia in macchina e passato ben 4 volte la frontiera con una patente falsa. Per quella prestazione medica, Provenzano aveva addirittura richiesto un regolare rimborso alla ASL. Dopo la pausa torna il racconto del giallo e nero sulla mafia dopo Bernardo Provenzano. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. L'11 aprile 2006 la polizia cattura Bernardo Provenzano, esattamente dove si pensava vivesse da tempo, in una masseria a 7 km da Corleone. Ma restano i dubbi. Com'è potuto accadere una latitanza di 42 anni in una zona così circoscritta della Sicilia? Il procuratore antimafia Piero Grasso. Non si cerca da 42 anni Provenzano. Provenzano si è incominciato seriamente a cercare dopo gli arresti di Bagarella e di Brusca, di Giovanni Brusca, cioè 95-96, perché in quel momento si è avuto la notizia che era diventato lui adesso il vero capo, colui che dirigeva l'organizzazione. Quindi, diciamo, intanto dobbiamo dire che non è 42 anni che si cerca. Forse se si fosse cercata anche prima non saremmo arrivati a tante stragi, a tante cose. Ma detto questo, lo Stato continua a contrastare sul territorio la mafia con tutti i suoi mezzi. Adesso questa operazione è stata veramente un'operazione di alta tecnica investigativa, fatta senza collaboratori, fatta senza intercettazioni, fatta senza altre influenze esterne. È stata fatta seguendo sul territorio, attraverso anche strumenti e tecnologie d'avanguardia, ma sostituendo agli uomini magari le tecnologie, comunque un'indagine veramente che dovrà fare scuola. Io penso alle telecamere nascoste per sottoterra o in mezzo alle pietre per cercare di riprendere non visti certi passaggi, certi movimenti, certi comportamenti. E sempre Piero Grasso ci aiuta a comprendere come il boss Provenzano abbia potuto vivere in un casolare a 7 km da Corleone in condizioni di vita praticamente da contadino. Se non si entra dentro Cosa Nostra, non si capisce cosa è questa organizzazione, che è un'organizzazione sui generis, non si può comprendere perché per tanto tempo un uomo si riduca in quelle condizioni, a vivere in quelle condizioni, pur essendo a capo dell'organizzazione fra le più potenti, diciamo, del mondo, ma più potenti perché ha una forza irresistibile nel momento in cui decide della vita di un uomo, se la vita di un uomo non vale nulla rispetto agli interessi dell'organizzazione. Questa è la vera forza, la vera potenza. Poi tutto il resto viene da sé, il potere economico e quant'altro. Però diciamo che questa vita, questo modo di vivere era funzionale al mantenimento di una direzione dell'organizzazione. Quindi io non mi meraviglio di una cosa del genere, assolutamente. Io vedo il capo si assume la responsabilità di continuare a dirigere l'organizzazione da un punto di vista strategico e vedo quindi l'assoluta coerenza con quello che è le origini contadine che ti portano a vivere in maniera molto semplice e però a gestire comunque un potere molto forte. Per Piero Grasso la latitanza di Bernardo Provenzano è stata favorita da appoggi di imprenditori e di politici. Proprio indagando sulla ricerca di Provenzano abbiamo scoperto tutto un mondo attorno a lui, fatto da imprenditori, da tecnici, fatto da professionisti, fatto anche da politici. Ma per padre Salvatore Lobue, sacerdote impegnato da anni sul terreno della legalità e del lavoro, la mafia vincente potrebbe aver venduto Bernardo Provenzano allo Stato, esattamente come è avvenuto nel passato. Quando qualcuno dei grossi mafiosi viene consegnato, viene preso dalla polizia, dai carabinieri, viene arrestato, questo avviene soltanto perché di fatto viene consegnato alla stessa mafia vincente, perché il soggetto non è più realmente il capo, perché non interessa più all'organizzazione. Quindi non vorrei che per l'ennesima volta si verifichi quello che si è verificato in passato. E oggi? Che cos'è la mafia dopo la cattura di Bernardo Provenzano? Quella è la radiografia delle cosche vincenti. Come nel passato sono sempre i latitanti a gestire gli affari illeciti. Traffico di droga, armi, soprattutto appalti, estorsioni. Il personaggio più importante resta Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro, potentissimo boss di Castelvetrano, provincia di Trapani, è latitante dal 1993. È accusato di associazione di tipo mafioso, omicidio, strage, devastazione, detenzione e porto di materie esplodenti, furto. Dicono sia fuggito all'estero. Infatti, il Ministero dell'Interno, il 29 giugno 1994, ha allargato le ricerche in campo internazionale per arresto ai fini estradizionali. Ma i segnali sono contrastanti. Secondo fonti investigative, forse si aggira davvero intorno a Trapani. E lo Stato ricerca ancora altri boss mafiosi sempre in contatto con Bernardo Provenzano. Sandro Lo Piccolo è nato a Palermo il 16 febbraio 1975. Lo Stato gli dà la caccia dal 98 con le accuse di omicidio, associazione mafiosa, estorsione. Giuseppe Falsone, nato il 28 agosto 1970 a Campobello di Licata, è accusato di associazione mafiosa, omicidio e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Maurizio Digati, nato il 7 ottobre 1966 a Racalmuto, è ricercato dal 1999 per omicidio, associazione mafiosa, truffa. Con la cattura di Bernardo Provenzano lo Stato vince una battaglia, ma non ancora la guerra contro la mafia. Perché la piovra cambia strategia, di giorno in giorno, di mese in mese. Oggi, ad esempio, con quale dei molti volti si mostrerà in pubblico? Con la faccia rassicurante della mafia dei colletti bianchi oppure con quella violenta e sanguinaria della mafia stragista? Come sempre i consigli giungono dal passato. Giovanni Falcone ricordava come proprio nei momenti migliori della lotta contro la criminalità organizzata la guardia non doveva mai essere abbassata. Credo però che a tutte le grandi avanzate subentri sempre un momento di riflessione, un momento di consolidamento dei risultati raggiunti. Si tratta di fare in modo che questo consolidamento non si traduca in arretramento, ma in una spinta verso avanzata ulteriore. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi, sonorizzazione di Silvio Lorenzi.